English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di un film che è uscito da pochi giorni al cinema. Approfittiamo del fatto di aver seguito molti personaggi del cinema alla Mostra di Venezia. Questa è proprio una conferenza stampa all'interno del festival. Abbiamo sentito parlare di The Informant dal regista, che è Steven Soderbergh, e dall'attore principale, che è Matt Damon, che dice: spero di lavorare con Steven Soderbergh ancora a lungo. Ecco qua, Matt Damon. You know, I think it's... I hope to work with Steven many, many more times. In this case, we had a terrific script. And we had the script for 7 years before we made the movie. So, and we worked 3 times together in that intervening period. So we would always kind of circle back. And once or twice a year, we'd read the screenplay. And we'd always see each other and, you know, say, well, it's still a really great screenplay. And the script didn't really change at all. And Steven's theory on comedies is that you make sure the script is perfect, and then you shoot the actual production period. You do it really, really fast, so you don't really have time to think about it. And that's basically what we did. We stewed on the script for 7 years, and then shot this film in 30-something days. And sometimes shooting as many as 8 pages in a day, which is really a television schedule almost. But the difference being obviously that we had this superior screenplay and all this time to kind of think about how we were going to do it. Allora Giulia, sembra che Matt Damon ci abbia preso gusto a lavorare con Steven Soderbergh e non vuole smettere, vuole andare avanti. Sì, sì, vengono chiamati un po' The Pack, no? Matt Damon, Steven Soderbergh, Brad Pitt, eccetera, sono reduci da tutti gli Ocean 11, 12 e 13, e quindi lui dice I hope to work with Steven many, many more times, quindi tante altre volte. Si sono evidentemente trovati molto bene. Andiamo subito con un falso amico, Terrific Script, non sta dicendo che è terribile, orribile, per niente. Terrific non è terrificante, ma stupendo. È un po' una così un'iperbole che viene usata, può essere usata per qualsiasi cosa, per uno script, appunto, per un copione, oppure per un film, ma anche per una persona, persino per l'aspetto fisico di una persona. You look terrific, hai un aspetto stupendo. Spesso si sente parlare ultimamente di film che richiedono moltissimi anni di gestazione prima di arrivare al cinema. Anche nel caso di Informant è successo così. Sì, lo script era pronto, era finito e lo avevano già letto e se lo sono coccolato per 7 anni. We had the script for 7 years before we made the movie, quindi prima di fare il film se lo sono guardato, riletto, e dice, usa questa espressione, we circle back, cioè giravamo in tondo, diremmo noi in italiano, e poi alla fine tornavamo sempre lì, tornavamo a questo script che però non diventava mai un movie. È perché è una cosa che Steven Soderbergh fa spesso. Sì, lui dice in generale parte da uno script molto forte e poi però aspetta. E tra l'altro l'atteggiamento di Steven Soderbergh, che sappiamo non ha fatto solo commedie, anzi il suo steer on comedy, cioè il suo steer letteralmente è lo sterzo, ma quindi l'atteggiamento di Steven Soderbergh verso le commedie è: you make sure the script is perfect. Devi essere sicuro che sia veramente. In 7 anni probabilmente questa sicurezza l'hanno raggiunta, che lo script sia perfetto. E poi dopo, then you shoot. Poi cominci a filmare, naturalmente non sparare. E non sparare. In questo film perlomeno non succede. Poi succede una cosa invece analoga a quella che accade quando si filma, si gira qualcosa in televisione. Sì, perché a quel punto lo script è talmente perfetto che si può shoot, si può girare really, really fast. Cioè si possono appunto le riprese, poi per le riprese ci vuole poco tempo. That's basically what we did. Cioè fondamentalmente, basically, abbiamo fatto questo. In 30-something. 30-something è qualcosa. 30 e qualcosa, quindi esattamente come in italiano, anche noi lo diciamo 30 e qualcosa giorni, l'hanno fatto. Non è l'unico numero, in 30 e qualcosa giorni giravano un sacco di pagine al giorno, immagino che stiamo parlando di pagine di copione. Ecco, così scopriamo appunto questa unità di misura, quindi how many pages a day, loro shoot, quante ne filmavano al giorno, as many as 8 pages a day, quindi 8 pagine di script ogni giorno, e dice Matt Damon, per noi che non sappiamo questa differenza, è come un television schedule, è come una tabella di marcia per la televisione. The Informant è un film che parla di un bugiardo, che parla di bugie, ma qual è il rapporto con le bugie di Matt Damon e di Steven Soderbergh? Sentiamoli. It takes a lot of energy to lie, which is why I don't do it, because I'm not any good at it, and if you're not accustomed to lying, then you're invariably going to trip yourself up. Which makes it fun to play a guy like that, because he is never wrong-footed. I mean, even if he is for a moment, he kind of catches on until finally somebody just says, stop. I think the lying is really important and very necessary. It does take a lot of energy, and it's one of the ways that I stay thin. I think we would all kill each other if we weren't lying. I think if you walked around every day saying everything you absolutely thought truthfully, that eventually someone will kill you. Allora, Giulia, abbiamo sentito prima Matt Damon e poi Steven Soderbergh che parlano del loro rapporto con le bugie. Il protagonista di The Informant, Mark Whittaker, è un grande bugiardo e loro dicono le bugie oppure no? Le dicono anche loro, anche se soprattutto it takes a lot of energy to lie. Ci vuole un sacco di energia per mentire. Beh, in fondo lo sappiamo, no? L'abbiamo un po' sperimentato tutti. Bisogna avere un'ottima memoria, bisogna sforzarsi, concentrarsi. Non è facile mentire. Diciamo che Matt Damon prima cerca di dire che lui non è che dica tante bugie, which is way I don't do it. Lui non dice bugie perché si fa fatica. Sì. Poi però specifica, non è che non lo fa, non è non tanto più che bravo. Una questione di energia è che lo scopriremmo, dice I'm not any good at it, cioè non sono bravo, to be good at something vuol dire essere bravi in qualche cosa, e lui dice if you're not accustomed to lie, to be accustomed to vuol dire essere abituato a, un customer è anche un cliente. E se non sei abituato, se non sei appunto un cliente della bugia, finisce che ti si legge in faccia quando menti. Recitare il ruolo di un bugiardo è divertente. E questo forse è proprio, insomma, il bello di essere un attore, no? Che anche se tu nella tua vita reale non sei un bugiardo, poi hai la possibilità di capire che cosa vuol dire essere un bugiardo. Makes it fun to play a guy like that. To play a guy, sappiamo che è questa parola super flessibile, super usata dagli americani, che vuol dire guy letteralmente è una persona, un uomo, però in realtà poi può essere usato anche per una donna, quindi diciamo è divertente fare un personaggio come quello, like that. Tra l'altro poi Matt Damon utilizza delle espressioni piuttosto curiose. Sì, perché lui dice che se tu non sei un bugiardo, you invariably trip yourself up. To trip yourself up vuol dire ti fai lo sgambetto da solo praticamente. Mentre il signor Whittaker, quello vero, it's never wrong footed, to be wrong footed, cioè avere il piede sbagliato, ma lui questo piede sbagliato non ce l'ha mai, cioè non si riesce mai a coglierlo in fallo, ecco, noi diremmo così in italiano. Sembra sempre, quando dice le bugie, tranne poi scoprirlo naturalmente magari nei tribunali, sembra sempre che dica la verità. Per quanto riguarda invece Steven Soderbergh, abbiamo sentito anche la sua voce, beh insomma anche lui dice it does take a lot of energy, ci vuole moltissima energia, e fa questa battuta piuttosto carina. Sì, non so se avete presente Steven Soderbergh, è un uomo molto sottile, anche i lineamenti del viso sono abbastanza scavati, e quindi dice it's one of the ways I stay thin, quindi questo io evidentemente, quindi visto che it takes a lot of energy, ci vuole un sacco di energia, io dico molto bugie e quindi resto magro. C'è anche un bel periodo ipotetico che utilizza. Steven Soderbergh. Sì, dice I think we would all kill each other if we weren't lying. Quindi we would kill each other, quindi ci uccideremmo a vicenda, if we weren't lying. Steven Soderbergh dice, insomma, si mantiene magro dicendo bugie. Chissà se è vero o se anche questa è una bugia. Certo che il personaggio di Mark Whittaker è molto affascinante. Com'è affascinante la figura del bugiardo, Steven Soderbergh spiega perché. The Whittaker situation is interesting because it started so early. You know, when he was in school, he was telling people that he was adopted. And so all of this began before he was ever in a position of power. And that was what was fascinating to me, because the motive was a mystery. But in general, I'm never surprised to find out that I've been lied to, especially by a politician. I think I expect it. A little bit, and probably want it a little bit. I don't always want to be told the truth about what's going on. I guess I'm fascinated by lying, as I said, because it involves more than just the liar. It involves the people that believe. And like I said, it's not going away. che è interessante il personaggio di Mark Whittaker, lo spiega Steven Soderbergh. Sì, perché poi il film ci spiega che lui aveva dei motivi poi nella sua vita adulta, così molto anche venali, per mentire. Però Steven Soderbergh dice it's interesting because it started so early, cioè tutto questo mentire era iniziato molto presto, when he was in school addirittura, quando era un bambino. Cosa raccontava? Ah, gli piaceva talmente raccontare bugie che he was telling people that he was adopted, che quindi raccontava alle persone che era stato adottato quando in realtà non lo era stato affatto. Quindi perché raccontare una cosa del genere? Per il gusto di raccontare una bugia. E poi spiega appunto dal punto di vista della persona the motive was a mystery because tutto è iniziato, all of this began before he was ever in a position of power, perché per carità di persone potenti, quindi in posizioni di potere, position of power che mentono ne conosciamo tantissime, ma se non c'è ragione perché farlo, e questo era affascinante per Soderbergh. Lui dice quando mi dicono le bugie io non sono sorpreso, I'm never surprised, non mi sorprendo mai, perché? I'm never surprised to find out, quindi to find out, di scoprire, that have been lied to. Questa è una forma che in italiano non possiamo usare, cioè letteralmente è che sono stato mentito, cioè che mi è stata raccontata una bugia. Perché forse da certe persone ce lo aspettiamo. I think I expect it a little bit. Prima diceva se noi sapessimo la verità potremmo uccidere, e lui dice io non voglio che mi si dica sempre la verità. I don't always wanna be told the truth. Non voglio sempre essere detto la verità, quindi non voglio che mi si dica sempre la verità. Quindi c'è una sorta di complicità. E quindi c'è una sorta di complicità. It involves more than just a liar. Cioè questo processo, in realtà la bugia non è semplicemente il bugiardo, è il bugiardo e chi l'ascolta. E quindi it involves the people that believed, cioè anche chi crede nelle bugie, consciamente, inconsciamente, in parte, in toto, è complice appunto. E questo per Soderbergh è un motivo sufficiente per raccontare la storia di Whittaker. Il nostro tempo radiofonico finisce qui e non è una bugia. Mark Whittaker con The Informant è al cinema, invece il nostro English 24 è in edicola come ogni mese. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.